24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Crisi dell'Eurozona, vertice a Roma, 130 miliardi di euro per la crescita. Monti incontra Merkel, Hollande Rajoy in vista del summit di fine mese. Il Premier annuncia moneta unica irreversibile. Accordo per una tassa sulle transazioni finanziarie. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura alla riunione di ieri a Roma, l'Unione Europea deve essere più forte, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo l'incontro con il premier Mario Monti, il presidente francese François Hollande e il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy. Ripercorriamo la giornata romana dei leader. Sarà il Consiglio Europeo del 28 giugno a dettare la linea del rilancio del vecchio continente, ma certo il messaggio che arriva da Villa Madama è chiaro. Per questo euro, dice il presidente del Consiglio Mario Monti, vale ancora la pena di lottare indietro sulla moneta unica, non si tornerà. Ma quale la ricetta? Il Premier indica crescita ed investimenti per creare nuova occupazione. Da ottenere sia attraverso riforme strutturali a livello nazionale per accrescere la competitività, sia attraverso una nuova agenda a livello europeo. Quanto fatto finora non è ancora sufficiente, avverte però Monti. L'Europa, aggiunge il Premier, deve mettere in campo misure per 130 miliardi di euro. Noi desideriamo che ci sia un pacchetto di misure per la crescita a livello europeo rilevante, che sia dell'ordine di grandezza dell'1% del prodotto interno lordo. Ma come convincere i mercati e i cittadini sulla capacità del vecchio continente di uscire dalla crisi? Per Monti l'unica soluzione è quella di andare avanti con la moneta unica. Una chiara prospettiva anche sulla irreversibilità di quel grande progetto che finora ha avuto molto successo e che si chiama euro. Il presidente del Consiglio chiude l'incontro a Villa Madama ricordando che la domanda di più Europa è stata lanciata oggi nella capitale, proprio dove è nata la Costituzione europea. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un pacchetto sulla crescita, un sostanziale via libera sulla Tobin Tax e poi una forte dichiarazione di principio. Il progetto euro è irreversibile. Si conclude così il vertice quadrilaterale di Roma. Facciamo il possibile per mantenere l'euro la nostra valuta e per questo euro vogliamo lottare, ha sentenziato la cancelliera tedesca Angela Merkel. Momente der Solidität entwickelt, genauso wie Instrumente der Solidarität. L'unione politica deve essere più forte, ha aggiunto la Merkel, e sullo stesso concetto ha insistito il premier spagnolo Mariano Rajoy. Queremos más Europa. Queremos una unión política, queremos una unión económica, queremos una unión bancaria y una unión fiscal. Ma se la necessità di rilanciare la crescita è stata condivisa, non sono mancati distinguo. La Merkel ha sottolineato che crescita e finanze solide sono i due lati della stessa medaglia, mentre il presidente francese François Hollande ha puntualizzato: volere la crescita significa che la serietà di bilancio non sia austerità. Je suis contre l'austérité. Et en même temps, j'ai conscience que nous devons envoyer un message de cohérence et de stabilité. Donc de confiance. Nessuna intesa per ora sugli eurobond. È tempo che siano una prospettiva e non di 10 anni, ha detto comunque François Hollande. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le borse europee hanno chiuso in negativo a eccezione di Madrid, che ha guadagnato l'1,52%. Francoforte ha ceduto l'1,26%, Londra lo 0,95%, Parigi lo 0,75% e Milano lo 0,65%. E ieri si è conclusa a Lussemburgo l'Ecofin, la riunione dei ministri degli affari economici e finanziari europei. L'idea di una tassa sulle transazioni finanziarie continua la sua strada in Europa, ma tra molti ostacoli e incertezze. In Lussemburgo i 27 ministri finanziari dell'Unione hanno preso atto del fatto che non tutti i paesi sono pronti ad adottare questa imposta. Non piace in particolare alla Gran Bretagna. Alcuni paesi potrebbero però decidere di optare per una cooperazione rafforzata, un metodo che necessita il benestare di almeno 9 paesi. La Germania e la Francia spingono in questa direzione. In teoria la Commissione ha proposto questa tassa anche per rafforzare il bilancio comunitario. Non è chiaro però se ciò possa avvenire nel caso ad adottarla sia solo un piccolo gruppo di paesi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. Il vertice di Roma è stato anticipato per permettere alla cancelliera Merkel di recarsi alla partita Germania-Grecia di ieri sera a Danzica per i quarti di finale di Euro 2012. All'incontro però non ha partecipato Antonis Samaras. Il neo premier greco doveva intervenire accanto alla Merkel nella tribuna VIP, ma il ricovero per il distacco della retina non gli ha permesso di intervenire. Ieri il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha consegnato alla squadra azzurra il tricolore che sfilerà il 27 luglio durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici. Valentina Vezzali è la portabandiera. Il capo dello Stato ha parlato anche dell'Europa. Noi viviamo oggi un'epoca molto complessa, nuova, che deve anche essere vissuta con molto coraggio, con molta audacia innovativa, gli Stati europei che fanno parte della Unione priva della Commissione hanno necessità di integrarsi ancora di più, perché il mondo si è fatto molto diverso da come era qualche decennio fa. L'Europa si rimpicciolisce, l'Europa una volta rappresentava il 20% della popolazione mondiale, oggi rappresenta il 7% della popolazione mondiale, abbiamo dei giganti, le nuove potenze emergenti con cui competere, e possiamo salvaguardare le nostre posizioni e continuare a dare il nostro contributo all'evoluzione della civiltà mondiale solo se sapremo unirci, integrarci sempre di più come Stati. Ora parliamo di ambiente. Si è chiuso non senza polemiche il vertice ONU sullo sviluppo sostenibile di Rio de Janeiro con 190 paesi. Dopo 20 anni dal primo summit sulla Terra, che ha lasciato eredità importanti soprattutto sul clima, Rio più 20 ha prodotto un testo che ha diviso. A Rio Marco Magrini ha intervistato per noi il ministro Corrado Clini. Quello che potevamo aspettarci da questo vertice è stato ottenuto, perché abbiamo un documento finale che identifica la green economy come quadro di riferimento per la crescita economica del futuro, identifica alcuni obiettivi per lo sviluppo sostenibile che sono comuni a tutti i paesi, e questa è una novità rispetto al passato, perché nel passato invece, non solo al vertice di Rio del 92, ma per esempio anche all'ultimo fallito di Copenaghen sul clima, gli obiettivi erano soprattutto riferiti ai paesi sviluppati, mentre sostanzialmente non c'erano previsioni di impegni e di obiettivi per gli altri paesi. Si ha un po' l'impressione che i paesi emergenti, mi riferisco in particolar modo a Cina, India e Brasile, non soltanto sono gli attuali protagonisti della crescita economica planetaria, ma stanno anche assumendo un ruolo di leadership. Assolutamente sì, sono questi i paesi che oggi danno il ritmo. Per esempio, questo accordo internazionale è un accordo che ha messo in chiara evidenza che con loro bisogna fare i conti. Da questo punto di vista il mondo è veramente cambiato, perché invece fino a qualche anno fa il ritmo lo dava l'Europa e poi l'Europa si confrontava con gli altri. Oggi l'Europa ha un ruolo importante, ma di partner di questi paesi, e in fondo l'accordo che abbiamo trovato testimonia proprio questo, ma questo non credo che sia negativo, questo credo che sia una grandissima opportunità per l'Europa. L'accordo di riammissione tra Unione Europea e Turchia è stato siglato a Bruxelles dai negoziatori della Commissione e del governo di Ankara. Il governo danese punta ad arrivare alla firma definitiva entro la conclusione della sua presidenza di turno, il 30 giugno. Udienza conclusiva al processo all'estremista di destra norvegese Breivik, accusato e reconfesso della strage di 77 persone tra Oslo e l'isoletta di Utøya lo scorso luglio 2011. La difesa ha chiesto la soluzione o che ne sia riconosciuta la sanità di mente. Rivendica le piene facoltà mentali, riconosce di aver ucciso a sangue freddo 77 persone, ma chiede l'assoluzione perché ha agito, spiega, per salvare la Norvegia abbandonata all'onda dell'islamizzazione. Così Anders Breivik, a conclusione del processo per le stragi di Oslo e Utøya del luglio 2011. L'autore dei massacri è intervenuto dopo l'arringa di 2 ore del suo avvocato, il quale ha respinto ogni ipotesi di infermità mentale del suo assistito, chiedendone a sua volta l'assoluzione o la pena più mite possibile. La pubblica accusa ha invece chiesto che Breivik venga dichiarato incapace di intendere di volere, che finisca i suoi giorni in un manicomio anziché in carcere. La parola ora passa ai giudici, che il 24 agosto dovranno emettere il verdetto sul peggior massacro compiuto in Norvegia dal dopoguerra. Se i giudici confermeranno la linea dell'accusa, Breivik potrebbe restare in cura tutta la vita. In caso di comprovata responsabilità penale, invece, rischia una pena sussidiaria di 21 anni di detenzione in regime di sicurezza, prorogabile finché verrà ritenuto pericoloso. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora una notizia per gli appassionati di bicicletta. Potrebbe essere l'idea per una una vacanza alternativa, una vacanza che presuppone un certo impegno fisico, una qual dose di pazienza e un programma, diciamo, elastico. 400 chilometri in bicicletta da Parigi a Londra, un progetto nato nel 2005 quando un funzionario dell'East Sussex pensò che sarebbe stata una buona azione consolare i cugini, non sempre amatissimi, d'oltremanica, della perdita delle Olimpiadi con una strada verde che unisse le due capitali proprio nell'anno dei giochi. Approvato dai francesi, il percorso ha incontrato non pochi ostacoli, soprattutto di budget, anche perché fin da subito è stato chiaro che soldi sufficienti per creare e mantenere una pista riservata alle sole biciclette non ci sarebbero mai stati. Dunque, a oggi, la strada verde utilizza per due terzi strade provinciali e secondarie, però sono già stati individuati campi e binari abbandonati che saranno riconvertiti. Per attraversare il mare sarà necessario il traghetto, alla modica cifra di 35 euro a coppia, adulto e bicicletta. E così veniamo ai tempi. Per un ciclista allenato potrebbero bastare 5 giorni. Per tutti gli altri il consiglio è di prendersela comoda, anche 2 settimane. Godersi il panorama fa parte del viaggio. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Un saluto da Pietro Lacorti, regia tecnica, e da Paolo Pancera in studio. 24 Ore in Europa. In collaborazione con Euronet.